Ecco, io vi ringrazio, sarà sicuramente molto piacevole e interessante per noi e cedo la parola subito a Hans Jörg Schaefer. Grazie. Grazie a lei. Signore e signori, sono contento di potervi salutare nel nome dell'edizione Rezia alla presentazione del libro Topografien, Topografie di Waltraud Mittich. Stasera signora Mittich leggerà dal suo saggio bilingue che è uscito quest'anno nell'edizione Rezia. Prima che andiamo in medias res, vorrei presentarvi in poche parole l'autrice. Waltraud Mittich è nata nel 1946 a Badischl, in Austria, si è trasferita all'inizio degli anni 50 in Alto Adige, laureatasi in lingue e letterature straniere e moderne all'Università di Padova e ha poi insegnato in diverse scuole. Mittich ha pubblicato finora tre libri, i titoli sono Mansbilder, è uscito nel 1200 e 2002. 2002, Berühren Sie jedes nel 2004 e Grand Hotel nel 2008. Tutti i libri sono usciti nella casa editrice di Scarabeus a Innsbruck. Allora vorrei chiedere già la parola a Johann Drummel. Il signore Drummel è professore all'Università di Bolzano e ci fa l'introduzione. Grazie per questo. È la terza volta che assisto alla presentazione di questo libro. Mi fa molto piacere farlo adesso in italiano, perché le prime due volte erano in tedesco, perché è un libro che mi parla molto da sudtirolese che non sono, però da persona che vive in Sudtirolo nelle due lingue, con le due lingue, nei due campi linguistici. E trovo in questo libro una testimonianza molto preziosa proprio dalla prospettiva di chi vive l'esperienza di due lingue, non di chi utilizza le due lingue per fare qualcosa. Sono commercialisti che lo usano, i falegnami lo usano, i politici usano, tante persone usano le lingue, ma qui viene descritta un'esperienza esistenziale. Non nella prospettiva della scrittura, sembrare una raccolta di pensieri di una persona che vive e scrive e riflette sulla scrittura, questa classica tradizione del romanticismo tedesco, concetto stesso di romantico, di ironia romantica, deriva dalla riflessione colta su ciò che si scrive spontaneamente. E non a caso ci sono i richiami anche ironici al romanticismo, questo nella egida messa davanti al volume. Allora, che cosa significa questa esperienza di vita? Significa che uno non parte con grandi pretese. Le grandi pretese sono espresse molto bene da un altro sudtirolese che ha vissuto le due lingue, Gerhard Kofler, che nel suo ultimo libro pubblicato prima di andare a Vienna ha premesso un motto di Giorgio Caproni: esperienza, tutti i luoghi che ho visto, che ho visitato, ora so, ne sono certo, che non ci sono mai stato. Allora, questo radicalismo, questa radicalità, che fa pensare anche a Calvino, dove l'immaginazione ha il sopravvento sulla realtà, non è la posizione delle topografie di questo libro, che non sono topografie irreali, che alla fin fine si scopre che non sono mai esistite, che non rimandano a delle realtà, solo che la realtà, e questo è, diciamo, il tocco di vita vissuta che così non la vedo, la realtà è interiore, ma non per questo posso dire che non ci sia, che i luoghi che ho visitato non ci siano, che io non sono mai stato in quel luogo. E questi luoghi, nel libro di Waltraud Mittich, sono luoghi grandi, Berlino, Roma, ma sono anche luoghi piccoli e tutti trasmettono alla persona esperienze legate al luogo e interiorizzate. Questa interiorizzazione viene fatta in alcuni casi per cenni quasi inavvertibili, richiami a una casa che solo esperti possono captare, ma poi vengono espliciti in due casi molto importanti. Da una parte il Gattopardo, che sta per tutto un mondo di italianità e di scrittura e di vita, e poi Elsa Morante per l'italiano, e soprattutto Ingeborg Bachmann per il versante tedesco-austriaco. E queste esperienze di lettura sono molto significative. Vivere con un rapporto molto intenso con testi letterari significa fare delle scelte, sentirsi partecipe o parte di un discorso che si inaugura, che si realizza in quella lingua, in quella tradizione letteraria, e queste tradizioni sono di solito anche spesso incompatibili tra di loro. Cioè Elsa Morante e Ingeborg Bachmann sono alle antipodi della letteratura contemporanea. E è difficile ipotizzare una persona veramente presa dalla poesia della Bachmann e allo stesso modo preso da Böcklin o da Grass. Sono due mondi completamente diversi e raramente si trovano persone che si lasciano prendere da questi mondi così diversi all'interno dello stesso orizzonte linguistico-letterario. Invece, saltando il confine linguistico, queste cose possono succedere e succedono perché le esperienze letterarie, io ricordo la Elsa Morante, è entrata nella mia vita spuriamente, perché l'ho mollata quasi subito, devo confessare. Sì, confesso qui in pubblico, perché non mi piace. Vabbè, lasciamo perdere. Però la cosa importante è che posto conquistano questi autori nella vita di una persona che vive l'esperienza non unilaterale, non unica, in un'unica lingua, e descrive questa esperienza come una esperienza in una enclave. Si sente in un'enclave a Berlino e si sente in un'enclave a Roma, e da questa situazione di emarginazione, di nicchia quasi, accoglie gli stimoli culturali letterari che si è scelta e che funzionano con lei e che creano un universo, non direi idiosincratico, però specifico di una persona che vive appunto due culture e non solo una. E la frase chiave di questa struttura mentale legata alla convivenza delle lingue è la frase che nel tedesco suona: Das Thema der Blues, die mich begleiten, die Melodie eingespielt, die Partie übernommen. Il tema, il blues che mi accompagna, la melodia eingespielt, è estremamente difficile da capire, è quando un'orchestra ha fatto le prove e ha raggiunto un risultato dove tutto quadra, dove tutte le parti funzionano e hanno trovato il consenso di come operare. Einspielen vuol dire portare a conclusione la preparazione prima del concerto. Funziona anche, ha un senso anche per piccoli gruppi di jazz che si trovano, improvvisano finché non hanno trovato la melodia, e quando hanno trovato la melodia sono pronti per suonare insieme in libertà. E di partire il nome e poi la parte assunta. Allora lei assume una parte e dentro in un gruppo di altre persone che suonano assieme a lei e hanno trovato questo accordo di massima per andare avanti insieme. Però rimane qualcosa di fragile, cioè non si parla del concerto, non si parla dell'esecuzione finale, è tutto un processo in fieri, però è molto soddisfacente per la persona perché ha la sicurezza di aver già fatto un progresso, di arrivato ad un certo punto, il melodista eingespielt, di partire con Norman, e il blues che l'accompagna, questo l'accompagna per tutta la vita. Allora, noi che leggiamo, cosa possiamo imparare? Che prima di tutto io ho imparato che autori che conoscevo bene, come il Gattopardo di Lampedusa, hanno delle sorprese che Walter Mittich scova andando oltre le citazioni che tutti conoscono e che tutti si passano da salotto a salotto o da saggio in saggio. E questa era una bella scoperta. E poi ha delle scoperte di uno sguardo dalla sua enclave, cioè dall'enclave si guarda fuori, si vede il mondo, però si vede il mondo attraverso il filtro di chi sta in disparte e di chi sta guardando con una vista caratterizzata dagli occhiali o da un filtro che l'altra lingua propone. E c'è questa bellissima frase che veramente mi ha stupito molto. Pentecoste, il Ferragosto dei tedeschi. Cioè, questa stupenda osservazione di un fenomeno di massa, i tedeschi si stupiscono sempre del Ferragosto e noi in Alto Adige ci stupiamo dei tedeschi che vengono come sciami a Pentecoste, per noi non è neanche festa di precetto, e arrivano tutti, boom, Pentecoste. E nessuno capisce perché gli italiani sono così fissati sul Ferragosto. Scoprire questa analogia e per me è stata veramente una sorpresa, perché io vivo in Italia da 40 anni, mi sono stupito da 40 anni di tutte queste cose, però non le ho mai messe insieme, non le ho mai colte. Allora, questo libro, con le osservazioni che offre, fa vedere a chi si lascia guidare che l'esperienza da nicchia, però guidata da un blues, da una melodia che mi sono fatta mia e che mi sorregge, che mi sostiene, che questa esistenza permette una visione del mondo che è più raffinata, più circoscritta di quella che spesso si può ottenere vivendo un'esistenza più lineare. E scoprendo queste cose mi invita a leggere il libro con molta cura e con molta attenzione per i particolari. Ci sono tanti libri che si leggono senza fare tanta attenzione e così diventiamo abitué della lettura superficiale. Allora questo libro non solo mi invita a diventare un lettore attento, ma mi guida per mano, per così dire, per diventare più bravo come lettore, più attento. E per questo motivo io sono grato, perché questi libri che ci guidano e che ci fanno diventare più bravi nel leggere sono veramente importanti. Allora io lascerei qui le mie riflessioni e poi andiamo avanti magari con un dialogo. Grazie professor Bommi. Una buona sera a tutti. Come avete già sentito, il mio testo parla di una vita in mondi paralleli. Mondi non paralleli nel senso come nelle grandi città, adesso ci sono i turchi, ci sono gli arabi. Qui viviamo un'altra vita parallela, però un po' parallela è anche qui. Se io cammino per Bolzano, vedo a Bolzano, c'è la Bolzano tedesca, c'è la Bolzano italiana, però mi sembra che da noi è un po' diverso. Comunque ho preparato, prima di leggervi qualcosa, ho preparato qualcosa sulla convivenza. La convivenza, il nostro tema, quello che ci segue, quello che stiamo seguendo. Vorrei parlarvi della cultura bilingue che abbiamo qui da noi. delle mancanze, ma anche e soprattutto della esistenza di questa cultura bilingue, che c'è. La mancanza, secondo me, consiste nel fatto, adesso devo dire una cosa che non vi piace, la mancanza consiste nel fatto che gli intellettuali italiani, ma non solo gli intellettuali, anche media come la Repubblica, non prendono atto del cambiamento che c'è. Penso che soprattutto gli italiani in questo nostro Sudtirolo hanno conservato la politica della Trennung, della separazione, dell'allora assessore alla cultura Zelder, che disse: più ci separiamo, meglio marciamo, no? Questo era il tema di Zelger degli anni 60 in poi. Divide et impera, ecco. Ma il cambiamento c'è qui in questa regione e dobbiamo prenderne atto. E consiste nel fatto che esiste a Bolzano, città, ma anche nei centri di periferia, un ceto colto, non direi borghese, forse non è neanche tanto colto, che vive questo mondo bilingue, che si esprime in tedesco e in italiano abbastanza bene. Esempio, io vivo a Brunico e da poco tempo ho cambiato bar, perché sì, c'è un parcheggio più comodo, ci sono più giornali. Ecco, in questo bar adesso ogni giorno entra un giovane, un ragazzo sui 30 anni più o meno, di madrelingua, che io conosco, è di madrelingua tedesca. Entra e parla con l'oste, pure lui di madrelingua tedesca, e questi si parlano in italiano. Io sto a sentire, sono curiosa, e un giorno insomma chiedo: ma come mai voi, che siete insomma di madrelingua tedesca, vi parlate in italiano? E questi mi dicono: ma sa, in italiano noi ci capiamo meglio, ci sentiamo più vicini, ci sentiamo più a nostro agio, e poi anche ci alleniamo un po'. Ecco, così. È una cosa che mi ha veramente colpito, no? E penso che esistano molte di queste storie. È vero? Bella questa. Sì, è una bella storia. Lo sto scippando. Sì. No. Poi, poi c'è un'altra cosa che vi voglio dire. D'altro canto, mettiamo le finezze di Pietro Citati, no? Pietro Citati, che scrive sulla Repubblica, scrive tante belle cose sulla letteratura tedesca. Per esempio, descrive o fa una recensione di un autore che gli piace molto, Winfried Georg Sebald, e fa e descrive questo romanzo in moltissime finezze, e penso che queste finezze di Pietro Citati su Repubblica vengono recepite da intellettuali e no di madrelingua tedesca, e se le godono. Questo è per esempio un altro fatto che è cambiato, il Sudtirolo è cambiato. Poi altra cosa che mi sta a cuore. Penso anche che i nostri parlamentari godono la loro vita bilingue a Roma ed altrove. Se la godono in modo edonistico e conscio, parlano benissimo l'italiano, e se la godono di essere capiti tra Palermo e Flensburg. Poi però, quando sono a casa, cosa fanno? Dicono tutt'altra cosa. Dicono sempre ancora che è meglio marciare separati, no? Ma la loro vita, quella che vivono loro, è una vita bilingue, conscia ed edonistica. Poi, altro fatto, chi sono le famiglie che mandano i loro figli nelle scuole sperimentali dove si impara sia il tedesco, sia l'italiano, sia l'inglese? Chi li manda i figli lì? Sono i ceti colti, sono i figli di questi politici, sono i figli di gente che capisce che i ragazzi che crescono trilingui sono molto più preparati per la vita in un mondo globalizzato, no? E tutta questa gente che vive questo, che noi diciamo una vita bilingue, una vita per dire anche, no, diciamo bilingue, va bene, basta bilingue. Tutti questi poi alla fin fine in politica fanno tutt'altro. Questa è una bugia, insomma, e questo non si può più tirare avanti così. Poi, non voglio prolungarmi troppo, però, perché voi aspettate che io legga, no? O no? Preferite che parlo o che leggo? Come vuoi, è interessante. Voglio parlare delle lingue, delle nostre due lingue, che approfittano l'una dall'altra e si influenzano. Il mio tedesco, quello che scrivo io nei miei libri, è stato descritto in una recensione tedesca online come talvolta ingombrante, mi hanno detto. In ogni modo, non un tedesco comune. Ben venga, per me. Io sarei disgustata se il mio tedesco fosse quello della Prussia o della Baviera o il tedesco viennese. Il mio tedesco risente della presenza dell'italiano in ogni momento. Sento questa presenza della seconda lingua. Nel ritmo del tedesco che scrivo io si sentono le cadenze dell'italiano. Salve, è il traduttore. Eccola. Allora, nel mio tedesco si sentono le cadenze dell'italiano parlato. È vero? Sì, dopo posso dire due parole, ma due... Non ancora, più tardi. Una. Sì, più tardi se possibile. Ovviamente. Si sente la presenza di questo italiano e io non vorrei che fosse diverso. Le lingue si trasformano in ogni attimo in tutto il mondo, non solo qui da noi. Questo sappiamo. E così anche Paolo Carnevale, vostro... Cresi Carnevale, scrive un italiano trasformatosi, un italiano nuovo, interessante, che risente le cadenze del tedesco bolzanino vicino, no? Questo è da dire, questo è il nuovo che viviamo. Perché lingue nascono, si sviluppano e muoiono, anche questo bisogna, di questo bisogna tener conto, no? Wittgenstein, il grande filosofo della lingua austriaco, ha detto della lingua la seguente frase: la nostra lingua può essere vista come una città vecchia, cantucci di vicoli e piazze, case nuove e vecchie e case con costruzioni aggiunte in diversi secoli. E tutto questo circondato da tantissimi sobborghi con strade dritte e regolari e con case uniformi. Ecco, la lingua come una città vecchia che si trasforma in ogni momento e vengono aggiunte sempre cose nuove. Questo dice Wittgenstein. Poi, se mi permettete una breve deviazione sull'italiano parlato oggi. Mi riferisco alla relazione di Stefano Bartezzaghi, tenuta alla tavola rotonda presso l'Università di Zurigo, cattedra di linguistica. Dice Bartezzaghi: cosa parliamo oggi? Sempre riferendosi all'italiano. Un linguaggio scalzo e scravattato, fatto di neologismi umoristici, di tormentoni e usi formali, noi contagiati dalla lingua neoespressiva addio italiano. Questo si può dire in ugual modo sul tedesco parlato oggi, sull'inglese, sul francese. Tutte le lingue hanno questa, stanno subendo questa trasformazione. Ecco, questa è la deviazione. Alla fine vorrei parlare di Gian Enrico Rusconi. Conoscete Rusconi? Rusconi è direttore del Centro per gli Studi Storici Italo-Germanici di Trento ed è professore alla Freie Universität di Berlino. Sono persone come lui, penso io adesso, capaci di ibridarsi senza avere la penosa sensazione di distruggersi. Questa frase che ho citato è di Lucio Russo, psicanalista ed uomo di lettere. Una persona come Gian Enrico Rusconi, che io non conosco di persona, ci apre lo sguardo, perché non ha paura di essere due o tre o anche quattro. Ci apre lo sguardo e, guarda caso, è un uomo di frontiera, di cultura mista, bi e tre lingue. È sua la frase seguente sui festeggiamenti di Berlino a 20 anni dalla caduta del muro: il clima festoso banalizza quello che era soprattutto un senso di incertezza. La gente non voleva la scomparsa della DDR. Ecco, lui ha questo sguardo dal di fuori. Lui vede qualcosa di nuovo. Vede quello che tanti tedeschi, per esempio, non vedono. Lo sguardo preciso formula così: dal di fuori, sempre dal di fuori, vengono queste nuove certezze. Abbiamo il dovere di portare avanti questa nuova etica, perché proprio di etica si tratta. È la nuova etica della globalizzazione, ciò che noi stiamo sperimentando dalle nostre parti. Adesso sembro quasi un prete. Ecco, questo volevo dire prima di leggere. Ecco. Non so, forse avete da dire. Mariani voleva dire qualcosa. Ah, ecco, tu volevi dire? Dunque, questo interessante spunto. Come siete? Su, prego. Come siete? Il problema è rialzarsi. Con la pratica. No, e dunque, questo interessantissimo spunto sulla globalizzazione linguistica. A Bolzano lo vediamo quotidianamente, soprattutto, cioè, sto dicendo, in ogni valle di montagna, ogni dialetto antichissimo ha una sua secolare dignità. A Bolzano l'italiano non esiste come lingua, cioè un italiano confezionato non si sa come. Come il tedesco? Il tedesco, eccolo. Ja, bitte leicht muss Ancetoni, e muss in amministratore onriefen, weil in condominium onriefen muss. Ecco, Potsner ist gemeint, non gut. E se uno va fuori e dice condominium, pensa subito, ognuno pensa che stia dicendo una porcheria, e condominium è come fabbrica. Ecco, e questo è appunto la globalizzazione. Adesso qui ci sono stati dei corsi storici ridicoli sotto certi aspetti. Mio nonno, che si chiamava Hölriegel, stava per essere trasformato in Olloricchio, poveretto, per fortuna che è finita in tempo. Ecco, quindi anche certe situazioni storiche possono portare alle deformazioni orribili linguistiche. Ma nasce anche il nuovo, no? Sì, nasce. Però può nascere il nuovo buono e il nuovo e fa schifo. Adesso io, traducendo questo libro, questa autobiografia, ecco, e ho avuto talora da discutere con l'autrice, e mi sono venuti dei complessi di inferiorità. Aveva sempre ragione lei. Ecco, tutto qui. Adesso preghiamo Mariani di leggere questo breve testo della... qui parla, il libro parla del mangiare tedesco e italiano. E pregherei... Di leggere il breve con quello che hai già letto altre volte. No, solo quello. Ah, adesso. Ecco, sì. Quello. Allora, bisogna anche impostarlo secondo un pronuncia. Ma lei crede, chiese il nonno di casa Fenoglio, che si possano trovare in Germania i piselli extra fini, quelli morbidi, quelli che si sciolgono in bocca, quelli che mangiamo noi, preparati con la cipolla e un po' di vino bianco, saporiti, la cosa più naturale del mondo. Ebbene, quelli qui non ci sono, piselli fini. C'è scritto sul barattolo, ma il contenuto è più grande e più duro di una noce, e questa roba la mangiano senza battere ciglio. I tedeschi non lo conoscono il significato di extra vino. Sono un popolo di barbari, dovrebbero imparare a vivere da noi italiani, da noi che siamo un popolo di esteti. Cioè qui anche ogni momento del libro va ambientato linguisticamente. Adesso c'è qualcuno che vorrebbe insegnare il dialetto nelle scuole. Aiuto! I ragazzini lo rifiuterebbero e perciò andrebbe perso. E ogni dialetto è un capitale. La scuola lo ucciderebbe. C'è il libro a pagina 38 e veden aves de imparare la grammatica trentina. Ma dove siamo? Uscito il libro a pagina 38, eh? Uè. Cioè, questo è pericolosissimo. Questo sì che è la morte del dialetto. Che il dialetto è proprio quella cosa che resta in ciascuno di noi e che lo aiuta in qualche modo a vivere. Se gli viene imposto, è morto. Ecco. Va bene. Qui questa parte del libro tratta di un'autrice italiana, Marisa Fenoglio, non so se l'avete, conoscete il nome, è emigrata, è una delle prime, negli anni 50 è emigrata in Germania e ha scritto un libro che ha il titolo Vivere altrove. E io cito Marisa Fenoglio per descrivere questa vita parallela tra tedesco e italiano. Forse incomincio con questo, con Marisa Fenoglio. Allora, al proposito, per quel che riguarda il bel bosco tedesco, e non solo quello, esiste un volumetto di un'immigrata italiana della prima generazione. Marisa Fenoglio è il suo nome, dal titolo Vivere altrove, cioè da un'altra parte o all'estero. La donna non è infatuata di questo bosco tedesco. Racconta di quando suo figlio un giorno torna a casa dalla scuola tedesca con un invito da parte della maestra perché la mamma si presentasse a udienza. La maestra di Niederhausen è piuttosto scioccata perché quel figlio di immigranti ha raccontato a scuola che sua mamma odiava gli alberi. Non solo, se soltanto potesse, farebbe tagliare la corona a tutti gli alberi del suo giardino e che soprattutto sua mamma riteneva che quello fosse il più brutto paese del mondo perché messo in mezzo agli alberi. La Germania, no? Il bambino aveva detto in culo al mondo per via degli alberi. Alla maestra, inorridita, era venuta a mancare la voce. Ed in Vivere altrove, l'autobiografia non si ferma qui. E come posso spiegarglielo a questa donna qualificata, zelante, tedesca fino al midollo, che ha un'opinione così atavica del bosco? Io, che nella città dove sono cresciuta non ho mai visto un albero, gli alberi erano da un'altra parte, sulle colline di fronte alla città, però erano alberi da frutto. Comunque, più tardi, parlando con un'amica, anche lei straniera, Marisa Fenoglio si concilia con il bosco tedesco, quantomeno a livello d'accenno. L'amica le presta una registrazione dei Lieder per coro misto di Mendelssohn Bartholdy, il Lied di Eichendorff, O ampie valate, alture, tu bel bosco verde. È inondato di luce, dice l'amica. Ed io, continua adesso la Zellerin, che amo Tieck più che Eichendorff, comunque entrambi, comprendo anche Marisa Fenoglio, è una sofferenza. Perché, nonostante non abbiamo acquistato la loro abitudine di bere anche dopo mangiato, la loro, dei tedeschi, no? Questo è il ragionamento successivo di Marisa Fenoglio, il successivo dopo il bosco tedesco. Abbiamo dovuto, quando c'erano degli invitati, servire ancora più roba da mangiare affinché i nostri ospiti potessero reggere le nebbie del Barolo e per far sì che la situazione a noi che ospitavamo non sfuggisse di mano. Abitudini tedesche e italiane del mangiare, storia culturale comparabile. Marisa Fenoglio, che è finita negli anni 50 sotto i tedeschi, noi germanofoni su tirolesi siamo finiti in Italia, però nel frattempo abbiamo imparato a mangiare. Cliché possono essere sempre confermati, poiché, adesso un'altra situazione, tazze di caffè d'un nero profondo al bar di Dolce & Gabbana a Milano, bustine di zucchero bianche con contorno nero, ombrellone nero con frange bianche nel cortile interno dove il sole non arrivava, lampadario veneziano a corona nero nell'ingresso che lei e lui attraversano come una cattedrale, sei boys vestiti di nero stanno lì in fila, impalati come grissini, soltanto ancora più snelli, grissini a dieta, e guardano attentamente chi entra nel negozio. E dappertutto pietra vulcanica nel pavimento, nelle cornici, nelle casette dei cactus. Cactus neri ancora non ne sono, fanno molto chissà. Persino la donna delle pulizie è vestita di nero, con un colletto della camicia bianco, ed essi, lei e lui, quasi non osano guardare i vestiti che pendono negli armadi neri. Ma lui poi tasta comunque un paio di pantaloni neri che cadono silenziosi sulla pietra vulcanica e questo è come un sacrilegio, i grissini accorrono a passi felpati e appendono i pantaloni con la loro cintura parlata, si chiama così perché il logo della ditta è impresso nella allacciatura, non occorre cintura, l'allacciatura parla da sola e i pantaloni dunque sono di nuovo appesi nell'armadio. Questo. Cattedrale del design, stile autoglorificante, quello che presenta Milano, a Berlino ciò è impensabile, e sconquassata dall'una e dall'altra parte, non sono in grado di decidere quello che io posso volere. Quantunque. Nella galleria del corso stanno lì i totem di ceramica di Ettore Sozzas e la gente guarda dentro, in rapido passaggio, come se li volessero salutare, anche la gente cosiddetta semplice, perché i totem le sono comuni. Non si tratta di un pubblico con una sensibilità artistica, come nei posti museali tedeschi, perché Sozzas, per i milanesi, non è un extraterrestre di cui si ammiri semplicemente il prodotto. Sono interiorizzati anche dalle belle giovani donne con vestiti da 50 euro di Zara, lì accanto, io trovo che quelle belle assomigliano ai totem. E poi siedo dal parrucchiere e capisco ogni cosa di quel che dicono, di quel che pensano, e parlano con me proprio come con una straniera, ma con una che in qualche modo appartiene all'ambiente. Le signore anziane parlano della loro digestione. Lei si ricordava di discorsi dello stesso argomento, come di quando, senza capirci nulla da ragazzina, sentiva zia Lina raccontare di quello che non poteva mangiare la sera perché non andava bene per la sua digestione, se il caffè dopo mangiato favorisse sul serio la digestione o se invece non provocasse proprio il contrario. Sogghignante e piena di comprensione, adesso ascoltava le chiacchierie delle signore dal parrucchiere e lei assentiva e diceva: no, non sono tedesca, sono italiana, forse, non si sa. E pensava che fosse una fortuna non saperlo, non saperlo di sicuro chi e cosa si sia davvero. Ecco, questa è la parte di Milano di Marisa Fenoglio. Poi, non so, volete sentire Berlino o Roma o Gattopardo? Voce più alta? No? Troppo sottovoce. Sottovoce? È vero? Devo più? Insomma. Sì? È laggiù che si sente. Non si sente? Sì, sì. Oh. Si sente? Sì. In fondo anche? Sentito? Allora, leggiamo per Berlino. E prima forse devo dire un'altra cosa. Questo saggio descrive la vita in mondi paralleli, abbiamo già detto, no? Ma questo è soltanto un binario del saggio. L'altro tratta di Kaliningrad. Così? No? C'è bisogno? No. No? Sì o no? No. L'altro binario del saggio tratta di città che si, soprattutto di una città che si chiama Kaliningrad. In italiano anche si dice Kaliningrad, penso. Kaliningrad, che è la vecchia Königsberg. Königsberg, che era la vecchia capitale prussiana. Questa città brucia il 30 agosto del 1944, il centro storico viene bombardato da aerobombe inglesi, poi la città è assediata e alla fine c'è l'assalto dell'Armata Rossa. Da qui in poi Königsberg non esiste più, in contraccambio nasce un'enclave russa col nome di Kaliningrad. Enclave, questa parola che appartiene anche, diciamo, a noi. Enclave, voi vivete in un enclave fuori dell'Italia, noi viviamo fuori del mondo tedesco, ecco. Per cui questa città di Kaliningrad è un altro binario del mio saggio. Ma adesso cosa c'entra Königsberg o Kaliningrad? Cosa hanno da fare con noi? Ci sono risposte diverse, però alla fin fine penso neanche una vale bene. Kaliningrad è una città di frontiera, è un enclave o un exclave, però poi Königsberg è la città nativa di Kant. Kant visse lì tutta la sua vita. Per tanti anni ci visse anche E.T.A. Hoffmann, che voi forse conoscete o no. Hoffmann è uno dei poeti tedeschi più conosciuti in Italia, penso. Più quasi di Goethe, quasi come Heine. E.T.A. Hoffmann ci visse lì, e anche Heinrich von Kleist. Kleist, che è il, secondo me, cioè Kleist è il poeta tedesco più amato da me. Königsberg è anche la città non nativa, ma la città di provenienza di Hannah Arendt, la filosofa ebrea, che in un'intervista con Günter Grass disse: io provengo da un'antica famiglia di Königsberg. Ciò nonostante, la parola ebreo non l'ho mai sentita. Questo perché Königsberg era il centro della tolleranza prussiana. Königsberg c'entra per noi, per tutti. Questo volevo dire, e poi inizio intanto con Berlino. E lei si ricordava del vento. Fischiava fin quasi attraverso i capelli. Già lo faceva ancora sempre. Ma dove se ne stava a quel tempo, 30 anni prima? Quando due tizi avevano attaccato discorso, quando aveva incontrata Aglaia. Aglaia, così filiforme che il vento quasi la travolgeva. Aglaia, che mangiava soltanto semetti, però veniva da Bolzano, dove questa abitudine ancora non c'era. E i due tizi raccontavano una storia ingarbugliata di infanzia infelice, fatta di ristrettezze e di necessità, quella d'avere una macchina. Aveva 100 marchi nel portafoglio, marchi occidentali, e perché poi si fosse portata appresso tutto quel mucchio di soldi non poteva più tardi spiegarselo. Era quasi il suo intero capitale. In ogni caso, cambiò i 100 marchi occidentali in corrispondenti marchi dell'est. Ricevette un gran pacco di banconote e si chiese, ma soltanto più tardi, che cosa mai avrebbe fatto con quel mucchio di marchi dell'est. Andò a mangiare 3 volte, a quel tempo aveva un appetito impressionante e sperava anche che nei giorni successivi non sarebbe più stata affamata. Ma la roba da mangiare non costava quasi niente. Il pacco di banconote rimase praticamente delle stesse dimensioni di prima. Lo schiacciò con tutte le forze, ma non servì a niente. Si mise a battere le librerie, c'erano libri con rilegature bellissime e ancora adesso aveva un volume di E.T.A. Hoffmann, La principessa Brambilla, con rilegatura di tela, blu chiaro con fiorellini, edizione Il Mattino. Proprio di quel Hoffmann che aveva reso a quella città una dignità letteraria, mentre prima non era che una città qualunque. Ma allora ancora non lo sapeva. Aveva dunque trasportato 2 borse piene di libri dall'altra parte, era tornata indietro carica come un camello al valico di frontiera della Friedrichstraße all'altezza del Tränenpalast e le era rimasto soltanto Hoffmann. I marchi dell'est li aveva nascosti nei calzonetti perché il denaro non poteva venire esportato, chissà per quali scurili motivi, così gli pareva a quel tempo. E ancora per anni saltava fuori da qualche parte un biglietto, fino a quando finirono definitivamente, come il passato, che va a sciogliersi, si perde. E Aglaia non aveva nulla in comune con l'Aglaia di Dostoevsky, quel grande amore del principe Mushkin, anzi, voleva restarsene sola l'Aglaia di Bolzano e l'avrebbe rincorsa per tutta la piazza a causa del suo nome. Sì, perché già allora, così pensava, mentre faceva il giro della piazza, libri e nomi e luoghi le avevano mandato in tilt il cervello. Ed è un miracolo, pensava, se sono ancora qui, su questa piazza, insieme con la mia testa. Non incolume del tutto, però i danni non superano certi limiti, che sono comunque accettabili. Così pensava Felice. Alzò la testa, voleva vedere il cielo sopra Berlino. Doveva pur essere permesso pensare così, così, anche se le parole erano già occupate e pensabili soltanto come titolo, ma il suo sguardo si fissò sul muro del grattacielo dove lesse un Fuck Bush e le tornò alla mente la grande manifestazione. Avrebbe marciato con gli autonomi, era un altro decennio rispetto al decennio di Aglaia, si manifestava contro Alexander Haig, un generale americano, si trattava di disarmo, di dislocazione di basi missilistiche in Europa, del loro raggio d'azione e dell'arroganza americana. A quel tempo Haig era ministro degli esteri quando gli USA erano governati da un autore. Già, c'era scritto Fuck Bush quasi nel cielo sopra Berlino. Nomi che sarebbe meglio dimenticare, pensava, anche se i danni provocati da chi li portava sono permanenti, quei danni permanenti che lei stessa avrebbe potuto provocare nella sua piccola vita privata, questa domanda non volle porselo, non ora, pensava, ma non parteciperei più ad una manifestazione oggi contro nessuno di loro. Questa è la storia del mondo, globale, certa, fatta da bambini cresciuti con grossi limiti di apprendimento. Uomini diventati adulti sul serio ce ne sono pochi. Un po' meglio donne già adulte. Bambini grandi, spesso cattivi, con labbra sottili e moventi da maldestre, che però ritengono possibile to make the world a better place. Danni forse provocati da me in quanto madre di figli maschi, ma non vorrei rimettere in gioco questo, lei ripeté. Così e dormi, speriamo che non siano, perché ho mal di testa e il vento che se ne fischia in giro per questa piazza non mi fa certo bene. Ma questa piazza orribile mi ha mandato fuori di testa anche adesso. Sempre, ripeté ancora, già a metà fra i 20 e i 30 anni, quando sono stata qui la prima volta, il vento soffiava attraverso i vetri rotti delle finestre, già allora cantava di dolore e da allora ha forse cominciato con questa cantilena nella mia testa, quel sound che in seguito mi ha sempre accompagnato, che si ripete nell'attimo, il lento degrado, la penetrante mania budenbrockiana, l'attitudine del poeta Ben nel descrivere l'accoppiamento come appiattimento, decadenza. E contemporaneamente il tema del Gattopardo, anche quello. Forse Kaliningrad, l'inizio di Kaliningrad, vi leggo ancora. Poi sarete stanchi. Più tardi se ne stette a lungo davanti ai treni in partenza alla stazione Lichtenberg. La città di Berlino era per lei, fin dalla prima volta che c'era stata, una porta attraverso la quale doveva semplicemente passare e allora sarebbe arrivata a posti dai nomi magici. Non a posti magici, ma i nomi dei posti li aveva sussurrati spesso da ragazzina, come parole consolatorie, posti letterari e nomi, Cassy, dove era andata a sbattere Effi e Effi Bristi Fontane. Stechlin, il lago e tutti questi posti, se addirittura non avevano nomi slavi ed erano posti slavi ad ogni effetto, avendo a che fare con gente che si chiamava Krampas o Dubslav, nomi slavi in ambiente tedesco, questi posti avrebbe trovato fin quando avrebbe potuto soltanto attraversare la porta. L'ultimo treno che stette a guardare come si metteva in movimento e come pian piano si sottraeva al suo sguardo, andava a Kaliningrad. Aveva aspettato così a lungo fino a che questo treno sarebbe partito verso quest'ultima destinazione? Per lei si trattava dell'ultimo o del primo posto, a seconda del suo punto di osservazione in prospettiva, perché la sua giovinezza era finita con questo, ma questo nessuno lo poteva e nemmeno era necessario comprenderlo. Anche lei stessa non lo capiva più. Pur tuttavia aspettava la stazione di Lichtenberg fin quando non apparve Kaliningrad, fin quando finalmente poté leggerlo. Era ridicolo, ma il fatto che finalmente avesse potuto leggere questa destinazione come qualunque altra, questo, così le sembrava, l'aveva atteso per tutta la vita. È possibile che questo per lei fosse la prova che la realtà potesse accendersi soltanto in forma scritta qualche volta. Ci sono delle domande dell'auditorio? Sì, dobbiamo rispondere alla provocazione che a Bolzano l'italiano non esiste. D'accordo? Allora, tu cosa pensi di fare di fronte a una lingua che non esiste, che senti minacciata o de facto già messa in disparte? Non è un caso isolato, perché si potrebbe citare dalla Romagna alla Bulgaria, a qualsiasi posto del mondo, un fenomeno del genere. Ho accennato a Bolzano perché ci vivo. Questa città deserta come un vecchio egoista senza affetti che odia anche le lingue. Adesso a un certo punto io mi ricordo quando ero piccolo in Val d'Ultimo, il vicino del Maso accanto aveva una Werkstatt in cantina, un'officina, sapeva far tutto lui. Per ogni tanto gli serviva un attrezzo o qualcosa del genere, mormusiausi per di Stockfock, dovrebbe giù dai maiali di città. Cioè, c'è un divario fra una dignità dialettale delle valli e una indecorosità linguistica, pseudolinguistica della città. Questo è innegabile. Va bene, adesso siamo qui perché una persona ci ha fatto partecipe di un tentativo di vivere nelle due lingue. Infatti, decorosamente. Sì. E cercare un decoro è più che un decoro, anche una ragione di vita molto forte, no? Lo però, possiamo conciliare un po'. Ecco, però il guaio è che la realtà linguistica a Bolzano è evidentemente in entrambe le lingue piuttosto deteriore. Cioè è un dato di fatto, non si scappa. E allora il fatto di voler fuggirsene a Kaliningrad o in qualsiasi altro posto dove si possa almeno non comprendere lo stesso fenomeno, potrebbe essere una via di fuga verso la salvezza. Ma... Odor? No. Letta. No, non è così. Cercalini, grazie. No, non è così. Non è così. È un'interpretazione. No, no, il degrado, allora si potrebbe vedere in tutte le altre lingue, sta succedendo. Infatti, solo che qui lo però capiamo, non lì, è no? soltanto un degrado. È anche un allargamento. Io non lo vedo così sì. negativamente. Ma quando sento parlare del amministratore, non mi pare sì, tanto sì. un allargamento. No. Una contaminazione. Ecco, ma per le peggiori. No. Ci sono tante cioè, possibilità. Ognuno la vede come... Va bene, ma questo non è tutto, perché in Alto Adige sono nati alcuni dei libri più divertenti scritti in italiano negli ultimi decenni. Mm-hmm. Alessandro Banda, che gioca con una difficoltà, tornando alla fonte di ogni rigenerazione dove i bambini nascono, cioè la ripetizione. Lui gioca con la ripetizione di formule e gioca con l'idea di giocare stesso e crea delle cose bellissime in italiano qua. E io credo che questa sua sensibilità verso le formule che prende e ripete e nella ripetizione altera ha a che fare con la povertà che tu individui giustamente, però la povertà non è l'ultima parola, perché poi c'è sempre la possibilità di superarla. Sì, esattamente come prima citavo la Romagna, dico anche in Romagna, poi che la gente che lavora nei locali d'estate e d'inverno è senza lavoro, a un certo punto ha cominciato a parlare così. How do you remember, dai? Ecco. Cioè, è un fatto purtroppo ormai mondialmente degenerativo. Ma io forse posso aggiungere ancora un'altra cosa. Più positiva, ecco. Mi hanno chiesto di scrivere un saggio su Andreas Hofer, adesso mi sono persa. No, aspetta, un momento. A Innsbruck, sì, da Innsbruck mi è venuta la richiesta di scrivere un saggio su Andreas Hofer, su questo anno che è passato, come è passato, e ecco. E io ho detto no, un saggio su Andreas Hofer non lo scrivo. Vi scrivo un saggio sull'est del Tirolo. Cioè il Tirolo che incomincia dopo Versiacco, no? Dopo il confine di Versiacco, lì abbiamo l'est del Tirolo, che è il Tirolo più povero, meno turistico, più genuino. Beh, insomma sì, più o meno è così. E poi ho detto, vi scrivo un saggio sulle lingue che parliamo adesso qui in Alto Adige. E la fine del mio discorso in questo saggio è il seguente, l'ho tradotto. Volevo scrivere su lingue che possono cancellare i confini. Nel momento in cui siamo capaci di tradurre il modo di dire im Handumdrehen, im Handumdrehen tedesco, in un batter d'occhio. Ma se anche 4 e 4, 8 ci sta bene, allora siamo ben serviti. Volevo scrivere su confini, storie e situazioni di confini, sollevamenti di confini, su condizioni vicini ai confini, con parole del genere, scrivere frasi del genere, le quali alla fin fine mi ha insegnato la Bachmann. Lei ha ragione, la Boemia sta in fronte al mare. Sì, se è fatto il moderatore, direi che questo applauso conciliante ci possa servire da segnale. Concludiamo qui la serata ringraziando Walter Mitty dello sforzo di superare, di trovare la positività e dare segnali di una vita vissuta nelle due culture in modo gratificante, non solo per lei ma anche per chi partecipa alla sua esperienza. E ringraziamo la biblioteca che ci ha ospitato, augurando, e adesso mi faccio io forte di un augurio che mi sta molto a cuore, augurandoci a tutti che fra non troppo tempo potremo usare i nuovi locali della biblioteca unita, della biblioteca, ecco. E tutti ci sogniamo, ogni volta che organizziamo qualcosa esordisco dicendo questa sede provvisoria, quindi è un augurio che ci portiamo avanti da 8 anni. Ne avremo avanti altri 8, ma insomma si arriverà. E poi volevo aggiungere una cosa: la biblioteca lavora e ha lavorato sulle identità, e fornendo documentazione pro, contro, comunque temi, il tema può essere approfondito anche attraverso i nostri libri, quello che noi recuperiamo, catturiamo anche attraverso le vie ufficiali, oppure riusciamo anche attraverso alcune tesi di laurea, ogni anno istituiamo un premio per cui le nuove ricerche le documentiamo, ecco, le mettiamo a disposizione delle persone. L'invito che faccio è quello di venire a questa biblioteca e vedere quello che noi mettiamo a disposizione di tutti. Ecco.